In questa puntata interamente dedicata al turismo, siamo ben contenti di potervi raccontare quello che anche la Commissione europea fa per tutelare i diritti dei cittadini all'interno di tutta l'Unione. E con noi c'è il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, che proprio qualche giorno fa ha presentato il decalogo sui diritti dei turisti europei. Buongiorno Tajani. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il turista è più tranquillo oggi nel viaggiare in Europa, vero? Ma noi abbiamo presentato un elenco di diritti, ma anche con qualche dovere, perché chi viaggia in Europa e anche per gli europei che vogliono viaggiare all'estero sappiano come possono utilizzare al meglio la politica dell'Unione Europea. Innanzitutto ricordiamo che in tutta Europa vale per ogni emergenza il numero 112, che è l'emergenza europea. In Italia è il numero dei carabinieri, però in Europa vale per chiedere soccorso a tutti. In più esistono, per esempio, per i passeggeri a mobilità ridotta dei diritti, come quelli di essere assistiti, accompagnati quando salgono in aereo, quando scendono dall'aereo. Lo stesso discorso vale per i passeggeri a mobilità ridotta che viaggiano in treno. Devono sapere i turisti che il costo del roaming è stato ridotto di molto dal 1° luglio grazie a una decisione della Commissione europea. I turisti devono sapere inoltre che l'assistenza sanitaria è valida in tutta Europa per i cittadini europei e questo è già di grande aiuto. In più c'è anche il diritto ad avere una sorta di passaporto per gli animali da compagnia, il che aiuta le famiglie che hanno degli animali domestici a casa che non intendono lasciare durante il periodo delle vacanze, quindi anche un'azione a tutela degli animali. In più ci sono anche altri numeri che servono per avere delle informazioni più dettagliate da parte della Unione Europea su tutti quanti i diritti. Insomma, un vero e proprio vademecum per il turista che deve sapere come potersi muovere meglio e sentirsi anche tutelato. In più c'è un punto dedicato al dovere del turista, che è quello di non danneggiare il patrimonio che gli permette di trascorrere una buona vacanza, sia il patrimonio ambientale sia il patrimonio archeologico, storico che ha, certo. Quindi anche il rispetto dell'ambiente e il rispetto inoltre delle regole di convivenza delle città dove intende passare le proprie vacanze. Quindi un decalogo molto chiaro, molto puntuale, e sono quelle risposte concrete, credo, che piacciono ai cittadini, perché è in queste risposte concrete che i cittadini capiscono, per esempio, a cosa serve l'Unione Europea, vero? Ma assolutamente sì, il nostro obiettivo è quello di far crescere il turismo, che consideriamo un settore chiave per uscire dalla crisi all'interno dell'Unione Europea e per continuare ad essere il primo obiettivo turistico al mondo. Più garanzie ci sono, più diritti ci sono, più abbiamo possibilità di veder aumentare il numero delle presenze, ed ecco perché alla ripresa dopo la pausa estiva con la mia collega Malmström presenteremo un documento dedicato a una migliore, più flessibile utilizzazione delle norme sulla concessione dei visti per cittadini extraeuropei che intendono venire a visitare la nostra Unione. Già per 42 paesi, come ricordiamo anche nel decalogo, c'è la possibilità di venire in Europa senza visto, certo. Però per cinesi e russi ad esempio serve il visto, e noi vogliamo fare in modo che nessuno rinuncia ad una visita in Europa a causa di problemi burocratici. In questi mesi avete lavorato molto più che sul turismo, sulle varie tipologie di turismo, quindi il turismo sostenibile, il turismo culturale, il turismo verde. È ampio il menù. C'è la possibilità anche per nuove tipologie imprenditoriali, secondo lei, nel senso che il turismo può essere davvero una risposta anche per i giovani che hanno voglia di fare cose nuove? Assolutamente sì, il turismo è un settore economico che deve diventare sempre più un settore imprenditoriale e industriale. La diversificazione dell'offerta non fa altro che arricchire le possibilità di crescita di questo settore. Certamente bisogna avere una politica turistica moderna, innovativa, basata sulle nuove tecnologie, basata sul rispetto dell'ambiente, alla riscoperta di percorsi religiosi, la riscoperta, penso, dell'antica via Francigena, ma anche una politica di forte intervento durante la bassa stagione può certamente aiutare questo settore ad essere sempre più riferimento per l'occupazione dei giovani. E a proposito di bassa stagione, dal 1° di ottobre parte il nostro progetto pilota della Commissione europea, che punta a portare in Europa turisti che provengono dal Brasile, dall'Argentina e dal Cile. Un progetto al quale partecipano moltissime compagnie aeree, moltissimi stati membri dell'Unione, molte organizzazioni commerciali, molti tour operator, tutta l'organizzazione europea dei tour operator. E quindi l'obiettivo nostro è quello di qualche modo creare occupazione e presenza alberghiere durante la stagione invernale, quella durante la quale le nostre imprese soffrono di più a causa di una ridotta presenza turistica.